Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiornissimo da parte di Filippo Glorioso, ben ritrovati tutti gli amici radioascoltatori e le amiche radioascoltatrici senza le quali questo programma non avrebbe motivo di andare in onda. Oggi una puntata un po' particolare, toccheremo un argomento un po' delicato. È scomparso una persona di 72 anni di San Mauro Castelverde, più tardi avremo al telefono l'assessore Capuana, il quale ci ragguaglierà farà il punto sulla situazione. Sono circa 15 giorni che questo signore è pensionato, peraltro è scomparso la propria campagna, viene ricercato attivamente sia dalle parti cinofili, è stato anche chiamato in causa il cane molecolare, ma grazie anche alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alla protezione civile che è intervenuta prontamente, ma fino ad oggi almeno, salvo novità, non si è trovata nessuna traccia di questo signore, una persona peraltro molto mite, una persona per bene, che è scomparsa appunto da 15 giorni circa. Ne parleremo tra poco con un esponente dell'amministrazione comunale e poi invece abbiamo tra pochi minuti in diretta radiofonica uno degli speaker che insomma sicilianissimo di Capodorlando, mio collega giornalista che adesso lavora sulla Italia nei 60 appunto della provincia di Messina, ma è stato un Arcolman straordinario, una voce meravigliosa, lo sentirete più tardi, di Radio Italia Nazionale. Con lui parleremo delle tematiche radiofoniche, delle discografie, di quello che sta succedendo un po' nei network nazionali. Poi è giornalista, quindi chiederemo anche alcune informazioni o dei suoi pareri sulle tematiche che oggi ci assillano, vedi la disoccupazione, vedi la politica che è allo sbando, adesso fortunatamente forse si sta ricostruendo qualcosa, quindi parleremo di tutto e di più. Poi un ospite straordinario, sono felicissimo di averlo qui in studio dopo circa un anno che non ci frequentavamo, ci siamo persi un attimo di vista, però con Angelo Daino, che i cefalodesi e i maurini conoscono benissimo. Beh, lui è un personaggio perché si occupa di gastronomia, non di gastronomia da tavolo. Io lo presento qui accanto a me. Ciao Angelo, grazie. Ciao per essere Filippo, venuto. Grazie sempre per l'invito, per me è sempre un piacere essere qua da te. Oh, poi ci sono delle notizie belle per quanto attiene il caffè letterario, per chi non lo conoscesse, ormai sono pochissimi che non hanno dimestichezza con questo locale che è straordinario, bello dentro, straordinariamente con d'impatto fuori, e a Cefalù il caffè letterario è la dice lunga, quindi è un ristorante di tutto riguardo e anche un bar se volete, potete fare un drink, potete prendere il caffè, ma nello stesso tempo si veicola cultura, dai quadri alle sculture, alla presentazione di libri, ma anche presentazione di eventi. Certamente gli ultimi tempi ci sono stati un po' di come dire di defiance dal punto di vista meramente economico, nel senso che Cefalù, vabbè, la crisi si fa sentire. Cioè, abbassiamo la musica in cuffia, grazie. Sì. Allora, dicevi, sì, Angelo. Diciamo che la crisi si fa sentire, tutti i vari reparti economici, specialmente la ristorazione, che comunque è una cosa in più, naturalmente si può anche evitare, non è una necessità primaria. Quindi, ma voi a Cefalù come ristoratori avete fatto diverse dimostrazioni, perché mi pare che c'è un contenzioso col comune, se non erro, no? No, cioè non è solo un discorso comune, è un discorso un po' più ampio, è tutto quello che comunque i media nazionali parlano, la pressione fiscale comunque diventa insostenibile, quindi le attività soffrono a discapito del consumo e a discapito comunque del lavoro. Allora, questo è un primo cappelletto, io fermo un attimo Angelo prima di dare linea alla regia, devo fare un ringraziamento. Allora, intanto devo ringraziare una new entry, la Cart Service in via Vittorio Emanuele 1 a Castelbuono, telefono 0921 671026, email cartservicegroup@gmail.com. Perché parlo di Cart Service? Perché a parte tanti servizi che vi può offrire a Castelbuono, cominciamo con le ricariche telefoniche, pagamento bollette, fotocopie, biglietteria, Trenitalia, Sky, Fax, Poste Pay, insomma Superenalotto, ce ne sono per tutti i gusti, ma in questo momento sta lanciando alla grande, devo dire, una nuova forma di telefonia che è la Bip Mobile. Avete sentito e avete visto anche gli spot televisivi che sono andati in onda negli ultimi mesi, è una nuova telefonia che si appoggia su 3, ma va in roaming roaming su TIM nel quale non dovesse prendere 3, non si paga nulla. Ci sono delle offerte straordinarie, BIP Mobile è veramente qualcosa di eccezionale, riguarda non soltanto la telefonia mobile in Italia ma anche all'estero, per esempio Cina, India e Marocco. Ecco, sono questi tre stati che in questo momento possono essere raggiunti telefonicamente con costi veramente accessibilissimi a tutti quelli che vivono in Sicilia e in Italia, ma che devono sentirsi, e anche la Romania, ecco, mi è venuto in mente adesso, questo paese comunitario, possono telefonare pagando pochissimo. Poi vi darò nei dettagli magari nelle prossime puntate cosa si paga per usufruire del servizio gratuito quasi a livello internazionale. Per quanto attiene invece la telefonia mobile, io vi do soltanto uno spaccato. Per esempio, con 9 euro al mese usufruite di 1000 minuti gratis con 2 giga per navigare nel vostro telefonino. Quindi non dimenticate BIP Mobile, i nostri servizi li trovate tutti a Castelbuono con carta service proprio all'entrata del paese, poco più avanti la caserma dei Carabinieri, di fronte il Banco di Sicilia a Castelbuono. Do la linea un attimo alla regia, al rientro parleremo di questi argomenti di cui ho fatto cenno prima, perché insomma sono argomenti di tutto riguardo. La radio, insomma, la facciamo tutti i giorni, può sembrare uno scherzo, diceva prima Spignola fuori onda, mi chiedono ma lei che lavoro fa? E quando dico lo speaker radiofonico, sì, ma dice, a parte questo cosa fa come lavoro? Perché lo speaker radiofonico è un lavoro come fare il giornalista, come fare lo chef da tavolo, come fare il maître, come fare l'organizzatore degli spettacoli, di eventi, eccetera, è un lavoro come un altro. Sicuramente ancora non è entrato a pieno titolo nella forma mentis di molti nostri concittadini, ma questo è, noi facciamo gli speaker, è un lavoro come fare l'avvocato, come fare il magistrato. Certo. Quindi, detto questo, diamo la linea a Santi Genovese, che ringrazio sempre per la parte tecnica, ci assiste in maniera straordinaria, noi ci capiamo negli occhi con Santi, è diventato un fonico ormai straordinario, oltre che un grande organizzatore di eventi. Vi ricordo che quest'estate dovete seguire Santi nel suo iter, perché lui è un responsabile ormai conclamato, non soltanto di quella famosa kermesse che è durata anni ed anni, che ha portato successo tantissimi giovani a Solo d'Argento, ma adesso insomma è anche responsabile per la Sicilia del Cantagiro, quello storico, quello a cui faceva parte anche la buonanima, ahimè, il del buon Little Tony. Do la linea quindi a Santi Genovese e al rientro parleremo con Giuseppe Spignola, questo speaker straordinario, anche lui una bella voce, devo dire, di Radio Italia, anni 60. Linea alla regia. Allora, rieccoci in onda e stiamo parlando con Angelo Daino, che peraltro ha partecipato a molte trasmissioni, Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 qua a Cefalù, poi Gustando la Sicilia su Telecorro Catania, Radio Action a Palermo, insomma è diventato un personaggio ormai famoso. Tra poco parleremo con lui di quello che sta facendo in questo momento, in questa fase di crisi, a Cefalù, nel suo ristorante, appunto il caffè letterario o la galleria, così come la si vuol chiamare, si chiama in tutti e due i modi, e parleremo con lui di possibilità di sviluppo, se c'è qui a Cefalù, oltre che in Sicilia. Insomma, Angelo è un personaggio ormai a tutto tondo e quindi cercheremo di capire sia il personaggio sia la sua professione. Lui è maître sommelier, poi chiederemo anche il significato intrinseco di questa parola. Abbiamo cercato un attimo telefonicamente di raggiungere l'amico Spignola, ma è irraggiungibile in questo momento. Io direi a questo punto alla regia, cosa che peraltro sta facendo Santi Genovese, di sentire un attimo se è in linea l'assessore Capuana, per capire questi 15 giorni cosa è successo, se ci sono novità a proposito della scomparsa di questo nostro concittadino a San Mauro Castelverde, un signor anziano 72enne appena compiuti, si recava come ogni giorno nella propria campagna accompagnato dalla figlia, fino a quando qualche settimana fa, insomma, è successo quello che nessuno si auspicava che potesse succedere. Allora, noi abbiamo in diretta radiofonica in questo momento l'assessore Gino Capuana, che ringrazio per aver accettato l'invito. Assessore, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, assessore Capuana, stiamo facendo un attimo la storia di quello che era successo, che è successo qualche settimana fa, esattamente saranno 15 giorni circa, o sbaglio? Sì, il giorno della scomparsa è stato proprio il giorno 16, giovedì 16. Allora, intanto diciamo il nome e cognome di questo signore, così la gente può anche memorizzare quantomeno quello. Il signore si chiama Scialabba Mauro Rosario, o meglio Rosario. Si chiama Mauro, però. Ecco, quando certo, Rosario. Allora, quando è scomparso, com'era vestito? Quali erano gli abiti che indossava in quel momento? Erano abiti campagna, presumo? No, erano abiti che normalmente lui, quando arrivava nel suo potere, poi cambiava, e così sicuramente è stato. Ho capito. Senta, sono scattate subito, è scattato subito l'allarme, cioè la figlia che doveva andarlo a prelevare alle 19 di sera non ha trovato papà, quindi anzi il signore doveva arrivare a casa da solo, e non essendo arrivato nell'orario previsto, la figlia si è recata nel podere del padre, non trovandolo ha dato l'allarme. Dico bene o erro in qualcosa? Sì, no, hai detto bene. Infatti la sera stessa abbiamo attivato subito la protezione civile locale, ha fatto subito delle ricerche. Sì. Delle ricerche fino a tarda notte, fino a mezzanotte. Poi l'indomani, il 17, tramite la prefettura si è attivata l'unità di crisi. Sì. E quindi è venuto, diciamo, sono venuti i vigili del fuoco, la forestale, il soccorso alpino e la locale, diciamo, protezione civile. Senza esito comunque tutto questo. Sì, praticamente in questi c'è stata la prima fase di 7 giorni, quindi dal 17 fino al 23, se non vado errato, sì. Hanno setacciato circa 800 ettari di terreno con esito negativo. Poi dopo una sospensione di 3 giorni, già da ieri, sono riniziate di nuovo le ricerche. Ecco, assessore, una domanda, a parte che mi risulta che c'è stato anche l'intervento di alcuni elicotteri, non so se della Forestale o della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri, che ecco, sorvolavano la zona antistante o nei pressi, nell'Interland, dove si presumeva potesse trovarsi il nostro concittadino. La domanda che le pongo è questa: siccome sono intervenuti anche i reparti cinofoli e soprattutto il cane molecolare, e mi dicevano che il cane molecolare seguiva le stesse tracce di cui prima seguivano i cani con il fiuto, e si perdevano esattamente nell'interland della casa, cioè non andavano oltre. Ci sono delle ipotesi sulla scomparsa di questa persona, assessore? Allora, per quanto riguarda il cane molecolare, che è venuto dalle Marche, visto che qui nel sud Italia non esistono queste strutture. Assessore, dovrebbe parlare più vicino al ricevitore, perché sennò la sentiamo male. Sì. Ecco, adesso va meglio. Allora, va meglio, sì. Allora, per quanto riguarda il cane molecolare, sì, che è arrivato dalle Marche, è stato 2 giorni qui in sede e ha fiutato una traccia che conduceva in una zona di San Mauro che si chiama Colle Calandra. Sì. Sì. Praticamente ha fiutato, un cespuglio dove sicuramente il Shalab sicuramente è stato, perché praticamente il cane subito ha individuato che quella persona sicuramente era stata in quel luogo, però dopo di più il cane non ha fatto. Quindi siamo al punto di partenza, cioè le ricerche continuano. Senta, secondo le sue informazioni, senza lanciare allarmismi né nulla, vi siete fatti un'idea, le forze dell'ordine si sono fatti un'idea di quello che potrebbe essere successo, nel senso che sia caduto in un burrone, in una incavatura, in un'insenatura di un terreno, e che qualche animale, vedi cinghiali, visto che la nostra zona è infestata dai suidi, potrebbe aver causato la morte, magari sbranando totalmente, inghiottendolo? Cioè, si sono fatte, ci sono delle idee, delle ipotesi fatte da parte delle forze dell'ordine? Le idee sono almeno due, diciamo. Quella dell'allontanamento volontario sarebbe magari una cosa positiva, perché se il signore, certo, si è allontanato volontariamente significa che magari è ancora in vita. Altra, sì, ipotesi, un malore, visto che lui andava sempre in campagna a cogliere verdure, asparagi, quindi magari un malore, magari si è caduto in un burrone e magari si è caduto in una vegetazione un capaccio, e quindi di difficile visione intercettare. Sì, le ipotesi sono queste due, altre almeno in questo momento non se ne fanno. Quanto oggi proprio volevo proprio essere vicino alla famiglia, perché proprio oggi il signor Shalab proprio oggi compie gli anni, 77 anni, è nato il 30 maggio, quindi oggi magari per la famiglia sarà momento ancora. Le chiediamo una cortesia, assessore, la cortesia che le chiediamo è di porgere a titolo personale mio, come conduttore di questa trasmissione, come concittadino dello scomparso Shalab, scomparso temporaneamente, ci auguriamo, nel senso che non si trova, e quindi stiamo attenti a non dare poi notizie insomma tendenziose, ma la vicinanza, voglio dire, personale mia, ma anche di tutto lo staff di CRM Piredio, che segue con apprensione e anche per mezzo stampa ci teniamo aggiornati su quello che possono essere gli sviluppi ulteriori su questo caso, che ahimè non trova, almeno fino a questo momento, nessuna soluzione. Quindi porti i saluti e l'affetto personale nostro e mio personale alla famiglia. Intanto, assessore, io la ringrazio per la sua disponibilità. Prego, dica pure. Ieri sono riniziate le ricerche, dureranno fino a sabato, ecco, nella speranza che si trovi. E cosa nel caso nel quale, malauguratamente per la famiglia ma anche per tutta la comunità maurina, non si dovesse trovare il signor Shalab, qual è l'iter, voglio dire, legale, quale procedura si accende, assessore? Ma visto che dopo magari ci sarà di nuovo una sospensione delle ricerche, la cosa più fattibile, secondo me, e questo è anche un appello che io lancio un po' a tutti i concittadini miei, è quello di fare magari delle squadre magari di persone di San Mauro che conoscono bene il territorio, magari, appunto, magari di anche pastori, persone, sappiamo, anche le ecco. Zone che già sono già state fatte. Assessore, noi ci auguriamo di tutto cuore, lei capisce con quanta apprensione chi è di quel comune, insomma, può seguire una situazione, già non è il primo caso che succede a San Mauro, c'è stato qualche altro caso qualche decennio fa, ma si è risolto positivamente, nel senso che fu trovato, e allora si trattava del signor Botta, poi l'indomani è morto perché comunque passò 3 giorni e 3 notti alla ghiaccio e quella volta finì, diciamo, positivamente, ma era anche anziano e quindi il fisico non ha resistito all'usura di questi 3 giorni e 3 notti vissuti al di fuori dell'ambito familiare, ma quella volta si risolse in maniera positiva. Ci auguriamo di tutto cuore che anche questo caso possa essere risolto nel migliore dei modi, per dare maggiore tranquillità e, come no, affetti alla famiglia, quindi essere restituiti agli affetti familiari, ma soprattutto per quanto attiene la tranquillità di tutta una comunità che in questo momento sicuramente sta in apprensione. Assessore, oltre alla stima personale nei suoi confronti e all'affetto nei confronti della comunità maurina, la pregherei quindi, come ho detto prima, di esternare la nostra vicinanza affettiva alla famiglia e soprattutto a tutta l'amministrazione e a tutti i maurini. Grazie, assessore, per essere stato con noi. Grazie a voi. No, grazie a lei per essere stato presente ed esaustivo. Le auguriamo buon lavoro. Allora, prima di andare avanti con la trasmissione, devo dare la linea alla regia? No, la linea è mia. Allora, prima di dare la linea alla regia, più tardi, io devo dare alcune informazioni. Una delle tante informazioni che devo darvi è che siamo in estate. Tra poco è alle porte, anche se il tempo è inclemente, non si capisce se primavera, estate, insomma, o inverno pieno, quello che succede al centro nord Italia, però ci sono delle ordinanze da parte di molti sindaci dei comuni dell'Interland e delle Madonie, visto gli incendi che si sono propagati l'anno scorso in tutto, soprattutto nelle alte Madonie, facendo danni ingenti. Allora facciamo attenzione, dobbiamo decespugliare i nostri terreni, dobbiamo ararli in modo tale che il fuoco non vada investire migliaia e migliaia di ettari di fauna, perché poi, insomma, è ossigeno che manca ai nostri polmoni. A questo punto vi suggerisco, quindi, chi volesse fare da sé o prendere degli operai eccetera per decespugliare, disboscare il proprio fondo, deve andare semplicemente a Salamone Genovese SNC, dove? A Cerda. Perché? Perché vi permette nelle condizioni di comprare degli ottimi motosega come l'Alpina, che è una firma da garanzia, oppure con un centro assistenza, naturalmente, oppure le motozappe, o per l'irrigazione, per chi volesse fare degli orti, impianti a goccia, tubi di irrigazione, ala gocciolante e la raccorderia che serve per tutto questo, oppure per il tempo libero nelle nostre campagne ci vogliamo divertire, per esempio una bella passeggiata alle Golle del Tiberio, per dirne una, io mi compro un bel quad per il mio tempo libero, oppure per fare cross e mini cross, anche questo Salamone e Genovese non mi fa mancare nulla. Poi c'è tutto per la campagna, quindi l'attrezzeria, l'utensileria per la campagna, in via Roma 75, vi do il numero del telefono e del fax per le vostre richieste o le vostre eventualmente domande 091 899 1350. Salamone Genovese SNC, info@salgen.it, CERD www.salgen.it. poi c'è una notizia molto bella: fino al 30 giugno c'è un'offerta straordinaria, stufe a pellet o a legna con detrazione fiscale, pensate, fino al 50%, la Nordica, ed è insomma un nome, una garanzia. Quindi ringraziamo ancora Salamone e Genovese perché ci consente di lavorare bene nelle nostre campagne. Poi bisogna fare delle camminate appunto anche in campagna se volete, o passeggiare per le città con la vostra moglie, la vostra fidanzata, o per il vostro tempo libero. Beh, dovete andare in pronte calzature perché i piedi sono fondamentali per la salute di tutto il corpo. E allora, Impronte Calzature, lo trovate su Facebook, uomo, pensate che firme, Carrera, Renato Balestra, Pier Carden, per la donna, c'è anche dunque Milano, c'è anche Carla Sanchez, insomma, delle firme straordinarie, per i bambini poi, insomma, Walt Disney e tanto altro. Punti vendita a Campo Felice di Roccella, via Cesare Civello 53, Castelbuono, Corso Umberto 1, 70-72, ma non finisce qui, perché naturalmente da anni ormai Impronte Calzature e la calzatura che vi consente di lasciare le proprie orme sul terreno, perché sono straordinarie, ottime nel prezzo, a partire da 19 euro a finire a 49, pensate, ma in questo includiamo anche tutta la linea mare. Speriamo che il tempo sia giusto. E ancora pantofole De Fonseca, una firma, una garanzia, la linea comoda, la riposella. Ragazzi, che altro devo dirvi? Andate a trovare semplicemente Impronte Calzature, sia a Campo Felice d'Ocella che a Castelbuono, e non ve ne pentirete, perché metterete ai vostri piedi anni di storia per camminare. A più tardi. E allora, rieccoci in diretta. Sto ascoltando, perché si fosse messo in ascolto in questo momento, o su streaming oppure sulle frequenze modulate 101.4, Carta e Penna, un programma condotto e ideato e condotto in studio a Filippo Glorioso. Alla console vi ricordo Santi Genovese, quindi alla parte tecnica. In studio con me invece il buon Angelo Daino, che poi insomma parleremo con lui di cosa vuol dire mettere sommeliere, eccetera eccetera. Intanto io avevo annunciato, per quando ho fatto il cappelletto di questa trasmissione, la presenza non fisica, ma mi piacerebbe molto, perché un caro amico, un collega straordinario, è un giornalista pubblicista, è una new entry nel mondo della carta stampata, ma anche dei mass media parlati, di radio e televisioni, è una bella voce, insomma, è un bel frigurin, direbbero sui ragazzi. Ha avuto un'esperienza straordinaria a Milano su Radio Italia, adesso sta lavorando da diverso tempo ormai, conduce una trasmissione su Radio Italia anni 60 a Capo d'Orlando, quindi regionale. Io ringrazio e do il benvenuto al mio più caro amico, un collega straordinario, un pecciotto meraviglioso, parliamo di Giuseppe Spignola. Ciao Peppe. Buongiorno, ben trovato. Ciao Filippo, grazie a tutti e grazie soprattutto per l'invito. Mi fa piacere constatare che, nonostante siano passati tanti e tanti anni da quando ci conosciamo, sì, non ti sei ancora stancato né curato dalla malattia che si chiama radio, e quindi evidentemente insomma è una cosa che ancora continua a interterre. Sai una cosa, io la chiedo, allora tu sei un po' più giovane rispetto a me, io ho i miei 54 anni suonati, ormai posso mettere il microfono al chiodo, come si suol dire. Ma insomma, la radio è bella anche per quello, ma poi te lo spiego. Allora, senti, parliamo un attimo di te, perché di me bene o male molte cose si sanno, altre è meglio che non si sappiano, insomma, preferisco che si... io sono testimone di alcune di queste, quindi faccio allora, bene a cero. Tu stai zitto, non dire nulla. Allora Giuseppe, abbiamo avuto un inizio insieme su una radio di Capo d'Orlando, dove io conducevo il GR e tu invece facevi lo speaker. Questa grande passione per la radio, giusto dicevi poc'anzi tu, non è assolutamente sfiorita, perché io presumo, e tu penso sarai d'accordo con me nel dire, che la radio è un mezzo che entra da tutte le parti, te la porti in campagna, te la senti in macchina, sì. Oggi c'è anche streaming, per cui ci puoi seguire anche in ufficio se vuoi, eccetera eccetera. Cos'è che a te ha dato in questi anni la radio? Cos'è che ti ha regalato? In che senso ti ha arricchito, se ti ha arricchito, Peppe? Allora, intanto sicuramente chi fa il nostro lavoro a determinati livelli non si arricchisce. Non parlo economicamente. Mi consentirai la battuta. Questa è una battutaccia, dai, metti il dito nella piaga, sì. Tu. Assolutamente sì, perché poi la nostra categoria è anche un po' bistrattata, ma questo è chiaramente un argomento di cui possiamo parlare anche in un altro momento. Parlando di radio, sì, io, guarda, mi sono fatto cominciare questa che poi è diventato un lavoro per me intorno ai... 11-12 anni, mi ricordo di aver frequentato per la prima volta uno studio radiofonico, e lì mi sono reso conto che effettivamente, insomma, era carina vedere la radio dal di dentro piuttosto che ascoltarla soltanto dagli apparecchi. Io ho capito che comunque poteva esserci uno spunto, uno sprone di partenza per poter fare in modo che questo effettivamente diventasse poi un lavoro. Poi tu sai bene che chiunque si metta in testa di fare delle attività che afferiscano comunque alle attività artistiche, comunque non propriamente pragmatiche, no? Come i classici lavori, che ne so, insomma, tutti quelli classici che conosciamo, va incontro anche a tutta una serie di diffidenze e di preconcetti. Del tipo, che lavoro fa? Esatto, ne parlavamo prima, sono bravo, sono prego. Sì. Molto, molto sovente capita che ancora oggi, alla veneranda età di 37 anni, mi chiedano che lavoro io faccio, e quando io spiego dopo un quarto d'ora che tipo di attività io svolga, arriva la persona un po' attonita, mi guarda e mi dice: ok, ma di lavoro lei cosa fa? E dico: bene, sono disoccupato e andiamo avanti. E vabbè, pensa a me che ne ho di 54 di anni, insomma, appunto, voglio dire. Appunto. Senti, allora, quindi le esperienze sono state comunque abbastanza importanti, come dicevi tu, insomma, ho avuto anche il piacere di fare delle esperienze di lavoro sicuramente medie. Sì. Senti, Beppe, di dubbio. Ascolta, ti volevo chiedere questo, tu hai 34 anni, molti anni di esperienza anche radiofonica, ormai non ci si stanca mai, perché chi ama questo mestiere lo fa appunto perché lo ama, non soltanto per una mera remunerazione economica, perché sennò, insomma, no, perché altrimenti non saremmo neanche qui a fare lo sto lavoro, perché adesso dico, non per mettere il dito nella piaga, ma tu sai bene che le difficoltà, poi specialmente in quest'ultimo settore, che affrontano anche gli editori, ai quali io vorrei dare un grande grazie, anche al tuo editore, che è una persona che nella radiofonia lottano tanto. La nostra radio ha 35 anni di vita, è un editore sinceramente che si sacrifica notte e giorno. L'anno scorso poi sai gli incendi di cui facevo cenno prima, tu non ci seguivi, e hanno anche rovinato in maniera irreversibile, abbiamo dovuto rimettere a posto un ripetitore con il posto. Soprattutto perché ho seguito la cronaca delle ultime settimane, dell'anno scorso, ho visto comunque che c'era davvero tanto da fare. Un grande applauso sia a Ettore Ingrilli, anzi colgo l'occasione per salutarlo, un caro amico, e il tuo editore, sia ad Angelo Tullio. Sì, il mio editore insieme con l'agenzia Eventi, chiaramente con Mario Volanti, al quale fra l'altro è morta da pochi giorni la madre, quindi facciamo le condoglianze. Mario, insomma, ha avuto una scomparsa proprio 3 giorni fa, quindi il nostro capo in pectore, diciamo, del gruppo Radio Italia in Italia. Una grande famiglia era d'Italia anni 60, io ho avuto il piacere di stare con voi per qualche mese, poi eventi personali mi hanno costretto ad allontanarmi. Mi senti, Peppe? Sì, ti sento perfettamente. Ah, perfetto, pensavo fosse andato via. Allora, parliamo invece di quello che è la radio, oltre all'informazione a 360 gradi, oltre al fatto che raggiungiamo tutti e tutti in qualsiasi punto della terra ci troviamo, oggi soprattutto con streaming, insomma, siamo... Esatto, anche con streaming, bravo. A parte tutto questo, la cosa che mi ha stupito è che molti cantanti neofiti, ma anche cantanti della levatura, voglio dire, di Mattia Bazzar, per fare dei nomi, come Giancarlo Golgi, un caro amico che spesso intervisto in radio per l'avvicinarsi dell'estate, sai, si parla delle tournée, si parla delle programmazioni, certo. Ecco, scelgono quasi sempre per lanciare i brani le nostre radio, tant'è che tu sei testimone, adesso ci cambiamo delle cortesie vicendevolmente. Sì, ecco, secondo te perché, come mai, nonostante la tecnologia sia andata molto avanti nel promuovere le discografie o i video, oggi si fanno anche i video, no? I gruppi, anche i single fanno dei video che vanno in onda su tutti i network nazionali. Pronto? Pronto? Sì, sono qua. E c'è un bip, non so che è successo. Allora, secondo te, perché? È mio. Come mai ancora la radio non è riuscita a essere soppiantata da altri mezzi? Qual è il segreto? Beh, questa radio intanto viva Dio che non sia riuscita a essere soppiantata da nessun altro media, perché i media concorrenti, competitor, sono davvero fortissimi. Il fatto che molti artisti, anche di levatura nazionale, comunque conosciuti, scelgano le radio del circuito minore, o meglio, le radio private, ecco. Pronto? Pronto, è caduta la linea. Vabbè, Santi, noi andiamo avanti con l'ospite che abbiamo qui in studio, e intanto tu vedi un attimo di ripristinare la linea, perché sarebbe un peccato, insomma, chiudere così in malo modo questa telefonata. Allora, Angelo, tu hai fatto tante cose, insomma, sei diventato un personaggio ormai, fai televisione, Rai 2, Telecolo Catania, ma come lo esageriamo? Poi sei anche bravissimo, voglio dire, sei un perfetto padrone di casa, insieme a Giuseppe, il tuo socio, che io ho il piacere di conoscere, una persona amabilissima, ma oggi sei tu con me, quindi parliamo di te. Poi c'è anche metro su media. Cosa vuol dire metro? Cioè tu prendi il metro, misuri, cosa fai? Sì. No, a parte le battute. Allora, metro su media è un'immagine professionale che riguarda la ristorazione, sia degli alberghi sia della ristorazione in se stessa. Il maître sommelier è il padrone di casa che, oltre a gestire tutto quello che è il fattore ristorante, dall'accoglienza alla guida nella scelta delle proposte gastronomiche della casa, al abbinamento vino-cibo, quindi è una figura completa che, per accompagnare il cliente nel percorso nel ristorante. Oh, io ne approfitto del fatto, non tanto dal livello gastronomico, ma eno, cioè sì, nel vino. È vero che il vino siciliano, almeno buona parte del vino siciliano, ha soppiantato quello francese come qualità, no? Sì, no, diciamo che nell'ultimo decennio i nostri viticoltori hanno capito che fare del vino di qualità potrebbe essere, cioè, era una cosa redditizia sia a livello di immagine del nostro territorio, sia non più a quantità, livello ma qualità. Qualità, sì, perché prima i nostri vini venivano usati come vini da taglio per i Bordeaux francesi, ricordiamo, oppure per i vini del nord, che la forza e l'alcolicità dei nostri vini naturalmente parliamo andava, 12-13 sì, gradi circa, sì, no? Sì, cose sì, che sì, non riescono sì a raggiungere. Adesso, cioè, da un decennio, anche un quindicennio a questa parte, si è puntato più sulla valorizzazione dei nostri territori, dei nostri prodotti, facendo dei vini di qualità. Ti fermo un attimo, poi sì, parleremo degli abbinamenti, se è ancora vero o no che il vino bianco deve essere accostato al pesce o se questa cosa è stata sfatata. Mi rispondi dopo, perché abbiamo di nuovo caduto la linea, quindi chiedo scusa agli ascoltatori, ma riprendiamo la conversazione ancora per poco con Giuseppe Spignola. Peppe, pronto? Spignola, ci sei? Sì, anche se ti sento un po' peggio di prima ci sono. Adesso mi senti meglio? Pronto? Pronto? Mi senti, Peppe? Pronto? Pronto? Io ti sento, tu mi senti? Veramente molto molto poco. E adesso è pure poco o più forte? No, mi spiace. Vabbè, facciamo una cosa, concludi la fase della discografia, il concetto. Sì. Ah, ecco. Sì, no. Ti dicevo, dico il fatto che comunque molti artisti anche di caratura nazionale scelgano il circuito minore, ovvero quello che è più vicino, più assimilabile al pubblico che poi compra i CD, è una delle caratteristiche che comunque risiede nella storicità della radio stessa, sì, ovvero se tu ti ricordi, e te lo ricorderai senz'altro, le radio libere di una volta, dei primi anni 70, non facevano altro che trasmettere le canzoni che poi effettivamente la gente comprava, e quindi sostanzialmente anche tutti gli artisti che passavano dalle radio erano quelli che inevitabilmente entravano di più nel cuore delle persone. Oggi c'è la possibilità anche da parte mia, se fossi un cantante, di mettermi a casa davanti al mio PC, realizzare i miei piccoli clip musicali, metterli in rete e quindi evidentemente farmi conoscere dal grandissimo pubblico. Questo secondo me è una cosa che la radio non potrà mai lasciare, non potrà mai essere soppiantata da nessun altro media, a meno che non parliamo dei social network, ma anche i social network hanno la loro parte di importanza, perché nella scienza della comunicazione i social network sono assimilabili a un tipo di comunicazione diretta, rapida, efficace e semplice come quella della radio. Giuseppe, parliamo un attimo invece del tuo di programma in maniera un po' succinta, perché tu sai che noi abbiamo i tempi tecnici radiofonici, certo, chi meglio di me? Chi meglio di te, figurati, sono le 12:48 in questo momento, io alle 13:35 minuti dovrei chiudere, perché poi vado a fare il GR, quindi sai, devo scappare. Allora, senti, parliamo invece in maniera stringata ma esaustiva del programma. Che programma fai, di cosa tratti, di cosa argomenti? Allora, io intanto conduco ormai da parecchi anni un magazine, un morning show in buona sostanza, che è un programma a metà strada fra informazione, intrattenimento e soprattutto tanta tantissima musica. Io più che altro ho la possibilità, grazie anche alla struttura che ho alle spalle, che mi supporta e che mi continua a dare la possibilità di andare in onda, di avere un sacco di artisti, di avere comunque tanta carne al fuoco, radiofonicamente parlando. Quindi tutti i giorni ho un calderone pieno di roba, ho un sacco di scalette piene zeppe, quindi sono molto molto contento di questo. Poi chiaramente anche l'attività extra radiofonica è molto intensa, grazie anche all'attività radiofonica, sì. Esatto, perché sono anche un giornalista e quindi evidentemente riesco ad avere anche materiale per le attività extra radiofoniche. E poi sai, è sempre bello avere qualcosa da fare. E poi una cosa che secondo me anche la giro anche al tuo editore, se si sta sentendo in questo momento, bisogna ripristinare i notturni, signori, bisogna ripristinare i notturni, perché si è un po' persa questa cosa. E nei notturni, caro Filippo Glorioso, amico di clamorose scorribande radiofoniche, durante i notturni si cucca e si cucca tanto. Lo so, ma tu e noi che abbiamo scelto d'oro. Di fare la radio, no, ma che abbiamo scelto di fare la radio perché in visus non volevamo apparire per ovvi motivi di ordine estetico, dobbiamo guarda, assolutamente. Adesso è il caso mio, perché essendo avanti negli anni si è depauperato un po' i pigmenti del mio viso. Vabbè, scusa, ti posso dire una cosa a beneficio di chi non ti ascolta, ma non sei mai stato bello sostanzialmente, quindi non è che è cambiata molto la storia. Io che ti conosco da anni, quindi lo so. Sei molto prezioso, sì, sei molto fine, io ricambio non con la stessa cosa, perché noblesse oblige, io dico che tu sei un bel ragazzo, parli bene, hai fatto il classico, si sente che sei forbito culturalmente, per cui sai, tu sembra i due belli insieme non possono stare, quindi quando facevamo un lavoro insieme io dovevo essere brutto della situazione, questo è in buona sostanza. Senti, allora facciamo una cosa insieme in radio, così non ci vede nessuno, anche se oggi le radio, malgrado, sono anche molto spesso trasmesse in televisione piuttosto che nei siti web, cosa che io sinceramente non disdegno, però si è un po' persa la magia della radio. Sei un po' narciso, lo sei sempre stato. Ecco, si è persa un po' la magia della radio. Senti Beppe, mi ha fatto veramente piacere sentirti. Grazie a te. No, ma cosa dici? È una cosa che mi fa piacere, indipendentemente dai complimenti che tu mi hai fatto, dicendomi e additandomi come uno dei Brutus che gira per le radio locali in Sicilia e oltre. Però detto questo, insomma, io sai, sono contento di quel po' che ho come bellezza. Tu cerchi di non fare sfiorire la tua, perché sarebbe un peccato, ecco, che sfiorisca la mia, voglio dire. Allora, assolutamente, a parte assolutamente, è stato veramente piacevole conversare con te. Grazie mille. Del tuo programma. Mi auguro, certo, devo di venire a trovarti prestissimo, così facciamo una puntata live. Va bene? Quando vuoi. Ma anche guarda, fra un paio di settimane si può trattare, perché mi fermerò in questo momento con il magazine del mattino per poi riprendere con un altro appuntamento. Dai, che ci facciamo una bella capatina qui a CRM. Intanto, chi ti volesse ascoltare su Radio Italia anni 60, quando ti ascolta, gli orari della tua trasmissione? Già domattina, posso dirlo perché tanto tu vai in onda appena dopo, quindi non facciamo no, domattina già dalle 10 fino alle 12 in anni 60 magazine, le frequenze per la costa tirrenica, oppure su internet sul nostro sito, che è anni60me.it. grazie per l'ospitalità e un saluto al tuo editore, che è una delle persone che stimo più in assoluto nella radiofonia siciliana, quindi un saluto e un abbraccio, buon lavoro davvero. Io ricambio, mi saluti il tuo editore, il mio ex editore, che adesso mi sfugge, l'ho detto prima, mannaggia, vedi la vecchiaia cosa comporta. Non ti preoccupare, lo dico io, Ettore Ingrini, Massimiliano San Filippo e Venti Esterrelle. Saluti tutti, un abbraccio affettuoso da parte di un ex. A te cosa dico? In bocca al lupo per il tuo futuro, sei giovane, la vita è tua. Io mi comincio... voglio dire, nonostante io sia brutto, però le mie cose in anzianità me li coltivo ancora, tranquillo. Vedi? Mi ricordavo che con la vecchiaia i difetti accumulano e si aumentano. Tu sei anche per maloso. Ciao, ti abbraccio. Ciao Beppe. Ciao, grazie mille, buon lavoro. Ciao a te, grazie a Beppe Spignola, Radio Italia del 60, amico di sempre, un ragazzo spiritosissimo, poi voglio dire anche preparato. Torniamo un attimo qui con Angelo prima di passare alla parte conclusiva della trasmissione, sono 12.53 in questo momento. Ah no, devo dare linea alla regia, sennò qui mi strappano tutto, anche le vesti che io non mi posso manco permettere l'uso più di comprare. Allora, linea Santi Genovese, vediamo cosa ci propone la regia. E allora, rieccoci in studio, CRM Radio 101.4, potete seguirci anche su Facebook se vi piace, lasciare qualche vostro commento, oppure potete inviarci un sms al numero 335-5637-251, telefonare allo 0921-923292. Siamo anche su streaming, quindi seguiteci anche in diretta televisiva. Con me è Angelo Daino, questo personaggio ormai famoso, ve lo ricordo, lui ha fatto... un po' meno, senti, però... tu hai fatto un passaggio televisivo a Cefalù su Rai 2, molto bello. Sì, è stata una bella esperienza. Sì, essere in diretta E devo dire che avendo fatto tutte e due cose è più bella la diretta che la differita. Sì, perché lì registrano, ti dicono sì. Taglia qua, accorci là, e dopo non ti ricordi mai quello che avevi detto prima. Quindi... invece la diretta è tutta spontanea con le gaffe, sì. Le cose che succedono. Sì. Senti, tu tra le altre cose ho ricordato ai radioascoltatori che hai fatto anche un'altra trasmissione gustando Sicilia su Telecolor Catania, sì, che è la sì, gemella sì. Di Antenna Sicilia, insomma è tutto sì, il gruppo, sì. E poi hai fatto Radio Action a Palermo. È stato ospite in sì, di Piero Zagone, che è una giornalista gastronomica. Loro fanno un programma proprio legato sulla gastronomia e invitano tutti gli chef, diciamo, della regione. Mi hanno invitato non come chef, perché io non ricordo, non sono uno chef di cucina, ma un maître sommelier. Quindi, cioè, per raccontare la mia esperienza. Senti Angelo, il 9 giugno invece dobbiamo ricordarci un appuntamento sì. Molto importante al Caffè Letterario La Galleria, sì. C'è esattamente la conferenza stampa per la presentazione ufficiale del Cantagiro, quindi sì. Voglio dire, andate sì. Numerosi, è un momento, sei orgoglioso di questa cosa? Sì. Eh sì, vabbè, noi abbiamo creato il Caffè Letterario La Galleria proprio con questo intento, cioè riuscire a conciliare quello che è la buona cucina, il bere bene, il bere bene e naturalmente la cultura e gli eventi. Siete gemellati, sì. Mi pare, con il Cantagiro, sì, diceva, sì, mi suggerivano sì, la regia, sì, c'è sì, un gemellaggio anche tra le altre cose. Ah, ecco, adesso deve intervenire lui e ogni tanto diamogli la parola, perché sì. non mi suonare il trombone, però ti prego, perché mi sto nelle orecchie, dai. Allora, volevo dire semplicemente, scusate la mia introduzione, volevo precisare che sì. La conferenza stampa dell'Astro d'Argento, che è gemellato con il Cantagiro, colgo l'occasione per ringraziare Angelo e il suo socio Giuseppe. Giuseppe per averci dato la possibilità di essere il 9, domenica 9 alle ore 19, proprio presso la galleria, per la conferenza stampa. Spero anche che ci sia il sindaco di Castelbuono, che ospiterà la finale in Piazza Castello di questa manifestazione, dove saranno presenti anche Enzo De Carlo, che tu conosci bene, caro Filippo. A proposito, salutiamo Enzo, che è il patron del Cantagiro. Poi ci sarà anche Virginia Barrett ed altri personaggi, Roberto Casalino, direttore artistico del Cantagiro, e saranno appunto in giuria a Castelbuono in Piazza Castello, e subito dopo magari raggiungeremo la galleria dell'amico Angelo per concludere poi questa serata proprio una bella cena, nel suo locale. Vi ospitiamo con vero piacere. No, perché se non mi invitate a cena, ecco, io il 9 non vengo per la conferenza stampa. Nel mio programma non faremo più pubblicizzazione. Mi dispiace per l'amico De Carlo, ma io ho qualcosa da guadagnarci. Ok, d'accordo. Scusate la mia introduzione. No, non ti preoccupare, introduci pure, non ti preoccupare. Verbalmente puoi introdurre quello che vuoi. Allora, bella sta battutaccia. Allora, prima di salutare Angelo, senti, che prospettive tu pensi ci siano per la gastronomia siciliana, ma soprattutto per la enogastronomia cefaludese nel futuro, visto quello che sta succedendo? Allora, quello che penso io è, cioè, noi nel locale naturalmente abbiamo cambiato un po' la filosofia nostra, quindi abbiamo puntato sul chilometro zero, quindi la valorizzazione dei prodotti del territorio, appunto chilometro zero. E quindi noi abbiamo ridimensionato e riarrangiato le nostre proposte gastronomiche proprio fondate sul territorio, mentre prima avevamo le ostriche eccetera eccetera, dei prodotti che venivano, quelle che erano le eccellenze di tutto il mondo, adesso abbiamo proprio valorizzato quelle sì, che sono le sì, risorse cerchiamo dei nostri. Sì, sì, nelle nostre proposte proprio abbiamo puntato proprio sul territorio. Un'ultimissima domanda. Un'ultima proprio stringatissima, sì. Angelo, è vero, è stata sfatata quella cosa che se io mangio pesce devo abbinare il vino bianco, o posso anche abbinare il vino rosso? Sì, no, l'abbinamento dei vini non è così, è molto semplicistico dire vino pesce, vino bianco e rosso, vino e carne, vino rosso. Naturalmente il vino ha delle caratteristiche che vanno abbinate al cibo. il cosiddetto mariage, dicono i francesi, il matrimonio, quindi le caratteristiche, i difetti di uno o l'altra cosa vanno uniti assieme e far sì che diventano pregi, quindi il vino deve saltare il cibo e il cibo deve saltare il vino, quindi è quella la scommessa di un sommelier quando va a proporre un abbinamento. La prossima volta che ti invito parleremo invece dei segreti di una buona cucina. Sì. Non è più il momento, perché il tempo, come tu vedi, scorre inesorabile. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Io ringrazio te, ringrazio la redazione CRM per essermi sempre, cioè per il vostro invito che è sempre gradito, e io vengo sempre in maniera io ti ringrazio per tutti questi complimenti, però mi raccomando, il 9 sera io desidero devo venire a cenare, perché sennò è a titolo gratuito, c'è Santi Genovese, voi non lo vedete perché sa dire le quinte, c'è stata la regia, lui fa così, cioè non c'è niente non c'è trippa per gatti. Va bene, a parte lo scherzo, sicuramente se sono libero verrò volentieri, sia per l'amico Santi Genovese che per De Carlo, ma anche per gli amici Giuseppe ed Angelo, che sono stati e sono tuttora persone straordinarie che gestiscono, ve lo assicuro, un locale di tutto riguardo. Tu sai benissimo che alla galleria sei a casa tua, quindi ti ringrazio, Angelo. Vedi, ecco, comincia ad andare a incassare questo assegno, vado a scambiare. Grazie Angelo Daino, che è un straordinario personaggio. Diciamo, in generale i nostri ospiti sono a casa loro. Questo è senz'altro vero, la vostra squisitezza nei confronti della clientela, insomma, la dice lunga. Allora, prima di salutarci, volevo ringraziare anche gli altri sponsor, ma volevo significare degli argomenti che attengono al vostro gusto, quindi panificio, biscottificio, Fratelli Tumminello, perché ve ne parlo, tutti fanno biscotti, tutti, ciao Angelo, grazie ancora, tutti fanno biscotti, tutti fanno pane, però sta a vedere i biscotti come vengono fatti. Allora, il panificio, biscottificio, Fratelli Tumminello a Castelbuono, i biscotti li fanno esclusivamente con prodotti genuini locali, parliamo del latte genuino locale, parliamo delle uova che sono essenziali per fare un buon biscotto. Poi i biscotti sono variegati, abbiamo i biscotti russici, al burro, integrali, al cioccolato, tutti rigorosamente fatti senza additivi, sono rigorosamente fatti con prodotti tipici locali, burro, latte e uova esclusivamente fresche di Castelbuono, per cui comprateli con tranquillità, mangiateli con gusto, perché sono come quelli che facevano le nostre nonne. Biscottificio Panificio Tumminello in via Cefalù a Castelbuono, telefono per le vostre prenotazioni 0921 67 11 32. Poi ancora, per motivi di denti, per problemi di denti sia di ortodonzia che di odontoiatria, dovete andare nello studio associato della dottoressa Domizia Di Fazio in via Sant'Anna 18 bis, perché per quanto attiene l'ortodonzia, cioè la cura dei denti, se sono storti, se sono messi male eccetera, se ne occupa lei perché è specialista nel settore. Accanto, nello stesso studio, c'è l'odontoiatra invece per quanto attiene tutto il resto della vostra bocca che deve essere sistemato, quindi studio dottoressa Domizia Di Fazio in via Sant'Anna 18 bis a Castelbuono. Per quanto attiene invece gli eventi sportivi che necessitano oppure di sbrigo pratica medica oppure accompagnare a casa un dimissionario di un nosocomio, un vostro parente, dovete chiamare Croce Verde perché è volontario sociosanitario, postazione medica, cioè l'ambulanza superaccessoriata per quanto attiene gli eventi sportivi, ed è d'obbligo che sia presente questa ambulanza, e la Croce Verde ce l'ha per manifestazioni sportive, appunto, con sede San Mauro Castelverde, filiale di Pollina, Cefalù e Castelbuono. Poi la dimissione ospedaliera, ve lo dicevo prima, accompagnare a casa vostra un vostro congiunto, chiamate sempre Croce Verde, oppure disbrigo pratica documenti sanitari, anche in questo Croce Verde è il numero uno. Sede, vi ricordo, San Mauro Castelverde, ma con filiali a Finale di Pollina, Cefalù e Castelbuono, telefono 360 866 082, oppure 333 40 27 332. Chiudiamo con, visto che c'è il 2 giugno, è una festa, potrete fare anche il ponte se volete, domenica, quindi venerdì, sabato e domenica, dove l'agroturismo alla Collina del Nibbio a 4 stelle, c'è un percorso all'interno anche culturale con delle sculture meravigliose, in prossimità dell'estate arriverà, ci sarà anche la piscina a disposizione, potete fare le camminate a piedi o a cavallo, e poi la gastronomia della Collina del Nibbio è di tutto riguardo, tutto rigorosamente locale, tutto su prenotazione, attenzione, lo trovate in contrada Pantano Policariti in provincia di Messina a Reitano, sotto Mistretta, e vi do il telefono 0921 33 80 34 oppure www.lacollinadelnibbio.it oppure info@lacollinadelnibbio.it. andateci tranquillamente, mangiate mangiate, riposate, sono delle stanze veramente confortevoli, per cui passerete un weekend di tutto relax. Cos'altro dirvi? Io ringrazio la parte tecnica come sempre Santi Genovese, anche se mi ha detto che non c'è trippa per gatti nella sera del 9 per la cena, ma io me ne frego, vado a cena lo stesso, pago io, non è un problema, tanto perché ci sono, c'è lui che è un caro amico, poi c'è De Carlo, insomma, che è una persona meravigliosa e mi piacerebbe rincontrarlo e riabbracciarlo, e poi c'è, insomma, i ragazzi che gestiscono Caffè Letterario come Angelo Daino. Ringrazio parimenti l'assessore di San Mauro Castelverde che è intervenuto, Capuana, che è intervenuto sulla scomparsa del concittadino Scialabba e ci ha ragguagliato su quelli che sono gli sviluppi ulteriori, ma di sviluppi ce ne sono ben pochi. E poi devo ringraziare naturalmente il collega, il grande collega, una delle voci più belle dell'eredità degli anni 60, che è Giuseppe Spignola, che ci chiamava dalla provincia di Messina. A tutti quanti voi un grazie, come sempre, per essere stati con noi, un grazie agli sponsor, vi auguro veramente di cuore un buon weekend all'insegna del bel tempo e, perché no, anche di un po' di mare. Ciao da parte di Filippo Glorioso. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo.